Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Chiaramente avremo un'ampia pagina dedicata al pacchetto di garanzie che ieri il governo ha annunciato, molte conferme rispetto alle anticipazioni che avevamo dato, sostanzialmente due grandi capitoli. Uno riguarda il rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'altro, e lì potranno accedervi le imprese fino a 500 dipendenti, 499 per la precisione, e l'altro riguarda invece la SACE, e quindi controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti, per la copertura dei prestiti alle grandi imprese. E questi due voci raggruppano tutto, perché si va dai professionisti, negozianti, autonomi, piccoli imprenditori fino a 25.000 euro, poi fino a 5 milioni, e questo riguarda le piccole e medie imprese. Invece per le grandi imprese arriverà la SACE con garanzie un po' diverse, adesso le racconteremo. E c'è anche la Golden Power, e cioè il governo ha esteso i poteri speciali per proteggere le attività italiane, vengono aggiunti ai settori già strategici, quindi energia e difesa, anche il settore sanitario e alimentare, ma anche il settore bancario e assicurativo, e potrà essere esteso anche alle piccole e medie imprese, scatterà d'ufficio anche su operazioni non notificate e sarà applicabile anche all'interno di operazioni dell'Unione Europea. E quindi poi vi saranno norme per abbassare le soglie di comunicazione alla Consob, e poi ne parleremo. Poi c'è la parte fiscale, credito d'imposta, sanificazione degli ambienti, sospensione delle tasse, e vedremo di capire, perché sulla sospensione delle tasse mi hanno scritto alcuni ascoltatori dicendomi: scusate, allora è ovvio che il governo doveva mettere una soglia, e si dice chi ha subito perdite da marzo del 30, rispetto a marzo 2019 o aprile rispetto a aprile 2020 pari o superiore al 33% entro i 50 milioni di ricavi o superiore del 50% sopra i 50 milioni di ricavi. Da questo punto di vista alcuni mi hanno scritto: mi scusi, ma se io avrò un calo del 30% e il mio competitor del 34%, lui potrà sospendere versamenti IVA e ritenute anche aprile e maggio, io invece dovrò farli, e qui si crea un po' un discrimine. Io immagino che chi potrà dirà che ha perso il 33%, però non può essere questa la regola, ovviamente. Così come alcune obiezioni riguardano il fatto che comunque si stia parlando di prestiti e non di prestiti a fondo perduto, e finanziamenti a fondo perduto. Altri paesi si sono mossi invece in quel senso, con prestiti più a fondo perduto. Intanto potevano farlo perché avevano condizioni di debito pubblico migliori delle nostre. Penso alla Germania, che ha stanziato un meccanismo di garanzia pubblica simile a quello italiano, con un effetto leva, però insomma. La Germania sta spendendo il 4,5% del PIL, l'Italia l'1,5% però, e la Francia il 2%, la Spagna lo 0,7% del PIL. Comunque, questo per quello che riguarda il decreto liquidità alle imprese, che attiva liquidità fino a 750 miliardi. Poi invece parleremo nella seconda ora dell'Eurogruppo. L'Eurogruppo è slittato, ma soprattutto la conferenza stampa adesso non si capisce quando sarà. Da quello che abbiamo capito, se resteranno queste posizioni in cui la Germania tende a dare un MES alleggerito a minori condizioni, questo non verrà accettato. Lasciamo stare gli altri pilastri, il SURE per le politiche di welfare sul lavoro e la Banca Europea degli Investimenti. La Francia, attraverso Bruno Le Maire, ha proposto invece obbligazioni comuni da mettere in un fondo per la ripresa, ed è appunto un fondo che abbia obbligazioni di carattere comunitario, quindi dell'area euro, ed è anche l'idea di Gentiloni, di Thierry Breton. Però la von der Leyen oggi ha detto gli eurobond, meglio usare la forza del bilancio europeo. Ho capito, a me non interessa il nome, interessa che poi arrivi qualcosa che non sia un capestro fra qualche anno per i paesi che vi ricorrono, se no, ripeto, non... L'Olanda dice niente eurobond, sì al MES ma con condizioni. Quindi se questa resta la posizione dell'Olanda, del ministro delle finanze Wopke Hoekstra, non so come si pronunci, gli eurobond non li farei neppure il governo, non si arriverà a nessun accordo. Scholz invece, ministro delle finanze tedesco, in un videomessaggio dice spero che ci sia un'intesa su MES, BEI e SURE, bisognerà andare a trattare ancora. Schäuble, è tornato anche il falco tedesco Wolfgang Schäuble, non contento della gestione che grazie a lui si fece della vicenda greca, ha detto oggi, lui è presidente del Bundestag, abbiamo dei trattati europei che mettono dei limiti molto precisi e la nostra Corte Costituzionale ha detto in modo chiaro che non sono possibili gli eurobond. E allora vabbè, lasciamo stare. Faccio notare che oggi l'Unione Europea dice attenzione, e la Financial Times scrive attenzione, l'Unione Europea rischia di perdere l'Italia, ma sbaglia anche il Financial Times a mio avviso nell'articolo, se posso permettermi, perché il tema non è solo italiano, guardate quello che sta capitando in Spagna e anche in Francia, dove l'impiego di risorse è massiccio anche lì, hanno stanziato per ora il 2% del PIL. Ma andranno avanti anche loro con altre iniziative. Non lo so, mi sembrano posizioni assurde e comunque mi sembra che qualcosa non funzioni nella governance, diciamo così, dell'Europa, perché io, con tutto il rispetto che ho per l'Olanda, non è che un paese, diciamo, che ha un peso minore dentro l'Unione Europea possa contare quanto gli altri, cioè, o diciamo che esiste anche un peso economico oltre che politico dentro questa Unione Europea, o se no si alza l'ultimo dei paesi noto per la produzione appunto di tulipani, di formaggio e soprattutto per la concorrenza fiscale che fa, vi ricordo anche grandi gruppi italiani, per carità, a dare lezioni non si va da nessuna parte così. Vedremo, tanto da quello che si è capito l'eurobond, o meglio l'Eurogruppo di oggi non avrà la forza perché i singoli ministri hanno avuto dei mandati precisi e quindi tutto verrà rinviato al Consiglio europeo, quindi con i capi di governo e i capi di Stato. Di questo parleremo anche della situazione che cerchiamo di fotografare ogni giorno con esponenti di vari settori produttivi e quindi oggi sarà la volta di Confimprese che ha diffuso dei dati di Confcooperative, scusatemi, che ha diffuso i dati sullo scenario di una mancata produzione superiore ai 270 miliardi, ha fatto notare però nel rapporto col Censis che più di un'impresa su due resta aperta, sono 2 milioni e 400 mila le imprese aperte con quasi 9 milioni e mezzo di addetti, industria e servizi appunto 2 milioni e 300 mila, che rappresentano il 42% del fatturato di industria e servizi, che vuol dire che il 50% non sta fatturando a casa mia. E Unioncamere stima un calo degli occupati nel 2020 di quasi 422.000 persone, di cui la fetta più grossa nel settore del turismo. Lo dico perché quando si dice bisognerà poi avere una cabina di regia, una task force, chiamatela come volete, per la fase 2 e anche la fase 3, cioè per la ripartenza economica, adesso dobbiamo mettere in sicurezza sanitaria il paese, è ovvio che poi bisognerà andare ad analizzare in maniera molto precisa i singoli settori. Se il 50% dei disoccupati stimati dalla Camera di Commercio saranno nel settore turismo, è chiaro che il settore turismo avrà bisogno di un aiuto più forte rispetto ad altri settori. Do un esempio e poi andiamo con le notizie in breve. Oggi l'Istat fa notare che c'è stato, ma come era presumibile, un boom della grande distribuzione del commercio online, La grande distribuzione, quindi supermarket, fa più 8,4%, e beni alimentari più 9,9% rispetto all'anno prima. Le piccole imprese, cioè gli esercizi operanti su piccole dimensioni, gli alimentari più classici, comunque fanno un più 3,3%, il commercio elettronico ha fatto già un più 15%. Questo per quello che riguarda il mese di febbraio. A marzo, tutti i dati che abbiamo ci dicono che l'incremento delle vendite della GDO e degli esercizi alimentari è stato anche più sostenuto. Però l'Istat fa notare che se il lockdown, se la chiusura andrà avanti fino a giugno, i consumi complessivi, non i consumi alimentari, faranno meno 10%, e meno 4,5% il valore aggiunto. Le borse invece continuano a scommettere, anche se in maniera meno insistita di ieri, in un accordo, in un grande piano europeo. Che alla fine si troverà un accordo, più 1,60 a Parigi, più 2% a Milano, più 2,5% a Francoforte, più 1,40 a Londra, Dow Jones più 2,30%, Exor più 7,60, Buzzi Unicem più 7%, Fiat Chrysler più 7%, Case New Holland più 6,30%, Amplifon più 5,40, Azimut più 5,40, anch'essa, Steam Microelectronics più 5, come Diasorin, e Banca Mediolanum. Chiudo con chi guadagna più del 3%, sia Tenaris più 4,70, Generali più, Banca Generali più 4,20, Enel più 3,34, Leonardo più 3%, Male Atlantia meno 4,80%, Telecom meno 1,90, Recordati meno 1,80, Campari meno 1,20, come Terna. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, purtroppo devo dare alcuni aggiornamenti non belli. È appena uscita un'agenzia a New York, si è toccato un nuovo record di morti in solo a New York, 731 in un sol giorno. Faccio notare che New York, con 10 milioni di abitanti, sta registrando i morti, e le proporzioni purtroppo sono importanti, che ha registrato l'intera Italia, o la Spagna o la Francia, che di abitanti ne hanno 58, 60, 44, 45 milioni. Tant'è che il bilancio delle vittime a New York è salito a 5.500, i casi di contagio sono 138.000. Nel frattempo Lufthansa ha chiuso Germanwings, è una loro controllata, l'ha appena annunciato. Il governo porrà giovedì la fiducia sul Cura Italia, mentre poco fa ha parlato anche Trump, eccolo qua. Ha detto: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sbagliato, finanziata in larga parte dagli Stati Uniti, è per qualche motivo sinocentrica, cioè cinese centrica. Fortunatamente ho respinto il loro consiglio di tenere aperti i confini alla Cina all'inizio, perché dare una raccomandazione così sbagliata? E ha minacciato, ha detto che guarderà attentamente all'OMS e ai finanziamenti americani. È chiaro che Trump sta cercando di spostare l'attenzione, perché c'è un deficit anche di credibilità sua, c'è molta polemica negli Stati Uniti, e quindi insomma continua la sua polemica adesso con l'OMS, ma anche con la Cina. Devo dire che a dimostrazione che io non ce l'ho con Trump a tutti i costi, secondo me la polemica di Trump con la Cina è giustissima, non giusta. E la cattedrale di New York, che è la famosa chiesa di St. John the Divine, diventerà un ospedale da campo degli evangelici samaritani. È appena uscita la notizia. Questo per dire la situazione come messa New York. Dunque, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, oggi non c'è moltissimo, abbiamo già detto dell'Eurobond, delle varie posizioni. C'è un nuovo balzo di morti in Gran Bretagna che segna il picco europeo, cioè è il dato oggi più alto in Europa, più 854 morti in 24 ore, che portano i deceduti ahimè in Gran Bretagna oltre 6.000. La Svezia ha registrato 100 morti in un solo giorno. La Svezia ha 10 milioni di abitanti e ha 591 decessi, e quindi è risperita la proporzione degli abitanti, con 7.800 casi. È come quando noi avevamo 3.000 decessi e 50.000 casi. Non lo dico perché la Svezia ha continuato a tenere aperto fino a ieri, adesso potrebbe riallinearsi. Non mi sembrano pochi 114 decessi, se facciamo la proporzione con un paese di 10 milioni di abitanti, moltiplichiamo per 6 che sono quelli dell'Italia, è come quando l'Italia ne aveva 700-800, ne ha avuti anche ahimè recentemente. Allora, dicevamo le vendite a dettaglio, va bene, ne parleremo più avanti. Anche le stime dell'Istat, Arcuri, il commissario Domenico Arcuri, ha detto che saranno prodotte 650 milioni, l'Italia potrà contare su 650 milioni di mascherine nelle prossime settimane. E nei giorni scorsi, a oggi, sono state consegnate 4.800.000 mascherine e nei precedenti 7 giorni si è superato il numero di 20 milioni. Procedure straordinarie non deve significare mai minore sicurezza. Oggi abbiamo distribuito 4.800.000 mascherine alle regioni italiane. Negli ultimi 7 giorni sono state 20,8 milioni. Nei precedenti 7 erano state 20,5 milioni. Ci stiamo stabilizzando su una distribuzione sufficiente e soprattutto, e non solo, che avviene in tempi assai rapidi, del tutto ragionevoli. Con gli accordi firmati negli ultimi giorni, al netto di quello che abbiamo già distribuito, abbiamo una disponibilità aggiuntiva nelle prossime settimane di 650 milioni di mascherine. Voglio confermare il giudizio già più volte espresso. Nessun insensato ottimismo. Abbiamo alle spalle settimane molto difficili, ma per quanto riguarda le forniture, il peggio è ormai alle nostre spalle. Giorno dopo giorno, grazie al prezioso lavoro di tanti, abbiamo fatto e continuiamo a fare importanti passi in avanti. Per quello che riguarda invece le notizie, insomma, l'ultima che voglio dare prima di parlare delle misure del governo per la liquidità, alle imprese, ieri altri 10.000 denunciati, 271.000 persone controllate, 14 hanno violato la quarantena. Io veramente su queste non ho più epiteti né commenti da fare. 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi alla pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, dico subito agli ascoltatori, chi vuole tornare sulla polemica su come è stata gestita la situazione in Lombardia, non è aria per quello che mi riguarda, poi nel senso che poi uno può pensare quello che vuole sul tempismo, prima o poi, io non so se vi sarà una commissione d'inchiesta parlamentare quando sarà finita questa emergenza, è chiaro che dovremmo andare a capire anche per il futuro che cosa non ha funzionato in una regione che comunque vanta una sanità d'eccellenza e nessuno lo mette in discussione, ma nella gestione non di Codogno ma di Alzano e di Nembro e di tutta la parte dell'Alta Bergamasca, è successo qualcosa di disastroso. Poi andremo a vedere le responsabilità. Ma chi continua a scrivermi anche oggi, ah, lei ce la, guardate, ho fatto l'esempio di Piemonte, Lombardia e Veneto, sono tre regioni a guida leghista, non c'è nessuna polemica politica, si sono mosse in maniera diversa e più virtuosa, numeri alla mano, Veneto e Piemonte, ma anche Toscana e Lazio, così vediamo se do spunto alle polemiche politiche per, nelle strategie di contenimento. Cioè, fate un calcolo, adesso lo farò fare nei prossimi giorni, se la Lombardia avesse avuto in percentuale di residenti lo stesso numero di contagiati e, ahimè, di decessi del Veneto e del Piemonte, quindi prendiamo due regioni abbastanza simili, a parità in proporzione ai residenti, andiamo a vedere quanti migliaia di morti in meno e di contagiati in meno vi sarebbero stati. Allora, Golden Power, prestiti, tutte le misure del DL. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, finalmente ci siamo, abbiamo i dettagli, sgombro il campo sulla Golden Power, l'ho già detto in apertura, quindi il governo ha misure per estendere i poteri speciali per proteggere le attività italiane, oltre ai settori energia, aerospazio, difesa e telecomunicazioni, quelli già presenti si aggiungono settore sanitario, alimentare, ma anche il settore bancario e assicurativo, in più potrà essere esteso anche alle piccole e medie imprese, scatterà d'ufficio anche su operazioni non notificate, sarà applicato anche alle operazioni all'interno dell'Unione Europea, sarà accompagnato da norme per abbassare le soglie delle comunicazioni della Consob, che le ha portate all'1% per le società grandi e al 3% del capitale per le PMI, ma solo per 3 mesi. Poi arriveremo agli aiuti fiscali per la ripartenza. Il commento, allora sentiamo Conte e poi la tua prima parte della, diciamo, spiegazione. Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento al mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno, sia del nostro export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. In particolare potenzieremo lo strumento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. E poi aggiungiamo anche il finanziamento dello Stato attraverso SACE, una società che è e rimarrà nel perimetro di Cassa Depositi e Prestiti, per potenziare lo strumento, questo strumento sempre a beneficio anche delle piccole imprese, ma soprattutto delle medie e delle grandi. Allora Gianni, vediamo di capire il dettaglio e poi alcune obiezioni che già mi vengono fatte dagli ascoltatori. Quindi, come già tu anticipavi ieri, ci sono due grandi capitoli. Il primo riguarda chi ha meno di 499 dipendenti, giusto, piccole e medie imprese, e lì come saranno i prestiti? E lì si va al fondo di garanzia della CDP, che viene rinforzato, era stato avviato questo meccanismo già dal decreto marzo, quindi il decreto del mese scorso. In verità queste garanzie, come dire, non erano decollate esattamente in modo rapido, comunque lo viene rafforzato per allargare il suo raggio d'azione, mentre per chi supera quella soglia c'è l'intervento come garanzia della SACE. Qui c'è stata una battaglia politica dentro al governo che ha allungato molto i tempi di gestazione del decreto, e con garanzie che scendono in percentuale al crescere della dimensione di imprese in tre scalini, 90, 80 e 70%. Il dubbio fondamentale, tra le cose che ha detto Conte, il contributo audio che abbiamo appena sentito, è sulla celerità e sulla immediatezza. Su questo volevo arrivare. Allora, fino a 25.000 euro, e quindi riguarda, immagino, professionisti, negozianti, autonomi, piccoli o piccolissimi imprenditori, perché qui stiamo parlando di esigenze di circolante, abbiamo spiegato molte volte, di liquidità per pagare i fornitori, lì hai il 100% in automatico praticamente, giusto? Senza aspettare l'ok del fondo. Una verifica sul merito di credito. No, non ho capito, c'è la verifica o no? Senza verifica. Devi solo verificare che ci abbia la partita IVA, sostanzialmente. Ok, e questo può dare un respiro. Andiamo punto per punto. Questo potrebbe essere abbastanza veloce, perché poi sappiamo che in Germania ci ha messo una settimana, qui diciamo no, per essere buoni. E questo dovrebbe essere abbastanza veloce, cioè domani sono un negoziante, sono un artigiano, sono una partita IVA, ho bisogno di pagare, sono un barista, un ristoratore, posso andare e ottenere subito i 25.000 euro? Allora, il meccanismo è abbastanza veloce, almeno sulla carta, non farmi bilanciare poi sulla velocità pratica, perché anche dare 600 euro agli autonomi sulla carta era velocissimo. Sì. Vediamo di ripristinare un attimo il collegamento con Trovati che va e viene, e questo è il primo punto. Poi ci sono i prestiti fino a 800.000 euro, e qui riguardano invece imprese piccole o medie che devono pagare stipendi, devono pagare fornitori. Qui come arriverà la copertura? Qui la copertura è al 100%, e la copertura al 100% fino a 800.000 euro aiuta la speditezza della verifica, perché la banca non ha la necessità di fare una verifica sul merito di credito completa, perché il rischio a carico della banca di fatto non c'è, in quanto in caso di mancata restituzione interviene la garanzia integrale dello Stato. Perché il 90% lo Stato è contro garanzia dei Confidi, il 10%, no? Se ho capito bene, no? Fino a 800.000 euro al 100% si può crescere e tenere il 100% anche nello scalone successivo. Diciamo così, fino a 5 milioni se intervengono i Confidi, vedremo quanto sarà ampio lo spazio di intervento dei Confidi. E appunto lì volevo arrivare, alla richiesta di liquidità fino a 5 milioni, la garanzia al 90%, sempre senza una valutazione di come va l'azienda o l'impresa, o insomma, o il ristorante. Esatto. Ok. E qui ci fermiamo, però, se ho ben capito, Gianni, perché poi c'è la garanzia per le imprese sopra i 500 dipendenti, ho capito bene? Esatto, articolata in tre scalini, del 90, dell'80, del 70% a seconda della dimensione di impresa. Sostanzialmente fino a 1,5 miliardi di fatturato e 5.000 dipendenti la garanzia del 90, fra 1,5 miliardi e 5 miliardi di fatturato dell'80, sopra e del 70. Allora, e qui vengo alle domande. La prima, la lunghezza di questi prestiti, 6 anni per quelli per le grandi imprese, no? Ma 6 anni anche per le piccole e medie imprese? Anche per i 25.000? L'orizzonte di 6 anni. Poi ti chiederò il resto dopo il metodo, però c'è una domanda che mi fanno in tanti e mi dicono, scusate, ma non era meglio avere un fondo perduto e non dei debiti futuri? Non era meglio avere tanti soldi da dedicare al fondo perduto? Certamente sì, purtroppo gli spazi di finanza pubblica sono quelli che sono, anzi sono quelli che ancora non sono, come diciamo spesso in questa trasmissione, e quindi, come dire, la strada che si è seguita è quella del prestito, perché la garanzia non si trasforma in debito pubblico subito, si trasforma in debito pubblico se nel corso della vita del prestito non c'è la restituzione, quindi deve intervenire il garante, mentre per dare soldi a fondo perduto servono appunto soldi che lo Stato italiano non ha. Allora, poi dopo invece, quindi la risposta è certo che... Certo che era meglio potendo... Ecco, gli altri mi chiedono, a che tasso verranno dati questi prestiti? Il tasso è molto molto basso, è intorno allo 0,2-0,3, perché il rischio... È praticamente inesistente. ...remunerato dal tasso è o molto basso oppure inesistente. è inesistente per i prestiti fino a 25.000, al 100%, ed inesistente è molto anche per quelli da 800.000 perché c'è i confidi, e 5 milioni invece un po' più alto sui prestiti, diciamo, sopra per le grandi imprese, ma, e quindi, però sono anche ammontari più grossi. Diciamo che è il rischio per la banca è quasi nullo fino a 5 milioni. Soprattutto sui 25.000 e 800.000 euro. Dopo il meteo e la pubblicità, voglio invece parlare con te della mi chiedono a chi devono rivolgersi i liberi professionisti. Liberi, i prestiti avvengono attraverso i canali bancari finanziari, cioè va dalla sua banca, dice che ha bisogno di 25.000 euro fino a un massimo per l'attività che è crollata, e la banca glieli dà. Okay. Sì, una volta che si è attivato il collegamento col fondo di garanzia. Sì, col fondo, ecco, speriamo che questo non sia però lo snodo lungo. Già. Allora andiamo al meteo, poi vorrei capire la parte fiscale, perché anche qui ci sono dei vantaggi: sospensione delle tasse, credito, estensione del credito d'imposta e altre misure per preparare le aziende alla fase 2. Però con una soglia che ha fatto un po' storcere la bocca ad alcuni ascoltatori, perché dicono la differenza tra 33% e niente è molto alta, ma adesso ne parliamo dopo il meteo. Focus Economia. Allora, Gianni Trovati, veniamo invece, sì, molti mi scrivono 6 anni, sono pochi, guardate, però attenzione, è chiaro che in questo momento l'obiettivo era garantire la liquidità. Io devo anche immaginare che fra 6 anni, e spero anche un bel po' prima, le stesse imprese saranno in grado di ripagare questo prestito, perché saranno tornate a lavorare, se no qua, voglio dire, non c'è prestito ponte che tenga. Dunque, Gianni, mi chiedono, ma se uno ha 3 banche, però il tetto vale per singola attività, immagino, no? Sì, certo. Quindi se io ho la Barisoni SPA, ho diritto fino a 25.000 euro in automatico, e poi quello che abbiamo predetto, 800.000 euro al 100%. Sì, tutti i limiti, criteri, parametri, eccetera, sono riferiti al beneficiario. Al beneficiario, la figura, diciamo, giuridica. Non si può fare il giro delle banche a chiedere 25.000 euro, purtroppo. Ti dico, dunque, tasso lo 0,2, lei ci crede, ma guardate che le banche in questo momento hanno un vantaggio, l'abbiamo spiegato più volte, che siccome c'è la garanzia dello Stato per fino a 25.000, di fatto anche fino a 800.000 è estendibile, se arrivano i confidi anche a 5 milioni, la banca non deve accantonare per criteri contabili nulla, perché la garanzia dello Stato, se tu non paghi, se non riesci a risarcire il prestito, non è la banca. E poi per i prestiti del fondo di garanzia c'è proprio una norma di legge che lo impone. Sì, appunto, c'è una norma di legge che lo impone, non è che la banca può mettersi a dire no, ma te faccio lo 0,4, io te faccio lo 0,6. E il vantaggio per lei è che non deve accantonare capitale di rischio, perché il rischio è zero, visto che poi ricadrebbe sullo Stato. Scusami, il rischio invece che paventano alcuni ascoltatori, che qualcuno faccia il furbo e non so, chieda prestiti tanto sapendo che sarebbe fallito comunque, e poi sapendo di non essere comunque in grado di pagare, fallito comunque voglio dire che già l'impresa, la società viaggiava in cattive acque prima del coronavirus. Allora, proprio per cercare di contenere questo rischio sono stati introdotti alcuni paletti, in particolar modo per i fondi, i prestiti, diciamo, degli scaloni più alti, che nella valutazione, diciamo così, del merito di credito non escludono, per esempio, i crediti deteriorati di cui il titolare sia già esposto, escludono solo quelli recentissimi, quelli emersi dopo il 31 gennaio, quando l'Italia era già in stato di emergenza decretato dal governo. È un equilibrio molto delicato, in verità, certo. Perché questi parametri rischiano da un lato di escludere dagli aiuti aziende in crisi che hanno bisogno, e dall'altro invece di lasciare a testa la strada dell'aiuto a aziende che non ne hanno bisogno e... o che hanno, diciamo, altri tipi di problemi col titolo. Allora, sì, spiego perché questo, perché se tu arrivi con una situazione di molti crediti inesigibili, ma non del mese di febbraio ovviamente, ma dell'anno prima, bisogna anche andare a valutare, perché probabilmente eri un'azienda che già era sul fallimento. Ora, non è che il denaro pubblico può salvare chi per motivi suoi, mi dispiace, ma non era riuscito a gestire l'impresa o l'impresa non aveva più mercato. I soldi sono degli italiani. Quindi lì bisogna valutare, poi è chiaro, bisogna stare molto attenti, perché ci sono imprese, penso al mondo del turismo alberghiero, che già erano andate in sofferenza a gennaio e febbraio, pensate il mancato arrivo di tutta la clientela asiatica, e che possono già aver avuto grossi problemi a gennaio e febbraio, ecco perché Gianni diceva non negli ultimi mesi. Ultimo capitolo, quello fiscale, Gianni, perché... Per la fase spuntano anche misure per preparare le aziende alla fase 2, cioè estensione del credito d'imposta al 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro, anche a mascherine e protezioni. Quindi se tu spendi per sanificare e spendi per mascherine e protezioni, avrai un credito d'imposta al 50%, e questo mi sembra cosa buona e giusta, perché è in automatico. Poi una nuova sospensione delle tasse che congela quasi 10 miliardi, stop ai versamenti di IVA ritenute anche per aprile e maggio, esteso a tutte le attività che abbiano subito perdite a marzo del 33% rispetto all'anno prima o aprile di ammontare analogo, oppure del 50% se fatturano più di 50 milioni. Mi hanno scritto alcuni ascoltatori: ma scusi, ma se io invece ho avuto un calo del 30%, il mio concorrente l'ha avuto del 35%, io devo pagare tutto e salto, lui no. È la classica obiezione corretta di quando si fissa un parametro rigido per distinguere i beneficiari di una norma da quelli che non ne possono beneficiare. Qui c'è un grosso problema, naturalmente, più tu sospendi i versamenti fiscali, più come dire, va in sofferenza la cassa dello Stato. La cassa dello Stato, che non è un'entità astratta, ma è quella roba che serve per pagare per esempio le pensioni, la sanità e gli stipendi. Anche qui la ricerca di un equilibrio, l'equilibrio ottimale in queste condizioni non esiste, e quindi si è riesumato questo parametro della perdita del 33%, che era già stato utilizzato per altre misure. Naturalmente chi perde il 32,9% e chi perde il 33,1% hanno un trattamento diverso, e questo è un problema. Ultima nota: è prevista una proroga di altri 2 mesi per il versamento delle ritenute per autonomi e partite IVA che abbiano un giro d'affari entro i 400.000 euro. Esatto. E poi chi fa l'autoliquidazione potrà versare a conti ridotti. La nota che mi interessa con te però è la parte burocratica. È vero che non servirà andare al commercialista o al CAF, ma a consegnare la delega per la dichiarazione precompilata basterà stampare e mandare la foto o un video, ho capito bene? C'è una norma sull'assistenza fiscale a distanza, questo è vero, va detto che non c'era oggi nessuna norma che lo impedisse, nei limiti del possibile, già era possibile con la posta elettronica certificata eccetera avere una serie di strumenti di assistenza fiscale a distanza, c'è una norma che lo facilita, lo rende generale. E poi per chi ha acquistato la prima casa con obbligo di rivendere un altro immobile, ho capito bene, ma sono congelati fino a fine anno i termini, cioè per concludere l'operazione accedere al bonus? Sì, esatto, si congelano i termini la cui scadenza determina il decadere del trattamento fiscale di favore per gli acquisti della prima casa. Ah, il bonus prima casa. Esatto. Ho capito. Perfetto, grazie anche a Gianni Trovati, Traffico. Focus Economia. Vedete, le posizioni sono diverse. Adesso mi ha appena scritto una bancaria che gestisce crediti per le piccole imprese, mi ha detto giusta l'iniziativa del governo, però attenzione che anche 25.000 euro senza alcuna valutazione del merito sono una cifra importante e il mancato rimborso rimarrebbe un costo per lo Stato. Sì, lei ha ragione, però guardi, per la situazione in cui siamo, lei pensi solo alle decine di migliaia di bar, ristoranti, parrucchieri, esercizi commerciali di altro genere, piccoli parlo, rivenditori, ma questi hanno bisogno di soldi in questo momento, cioè hai forniture che devi già, devi pagare i fornitori, se no si blocca la catena dei fornitori, devi pagare i dipendenti, a meno che tu non sia riuscito a metterli in cassa integrazione, cioè un po' di circolante ne hai bisogno. Come fanno a riaprire i piccoli esercizi commerciali se non hanno un po' di liquidità, non solo per pagare i fornitori, perché no, i fornitori non ti danno più la merce nel futuro, no? Bisogna stare attenti, mi rendo conto che sia una cosa eccezionale, che ci sarà chi vorrà fare il furbo, poi andremo a vedere, nel senso che poi anche l'Agenzia delle Entrate è lì un domani, adesso mettiamo intanto, garantiamo la linea di liquidità alle imprese. Scadenza da 6 anni da quando si inizia a ripagare il prestito, adesso ne risponderemo anche a quello. Intanto saluto Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative, in collegamento con noi. Buonasera Gardini. Buon pomeriggio. Allora, intanto mi dia un commento, visto che lei appunto rappresenta il mondo delle cooperative, avete portato un rapporto oggi col Censis. Il provvedimento sulla liquidità, quello che ha varato ieri il governo. Ma ne diamo un giudizio positivo, anche se un giudizio di preoccupazione, perché come abbiamo detto a tutti i livelli bisogna agire tempestivamente e fare presto. Oggi però, avendo il provvedimento, immagino che oltre 3 milioni di imprese, dalle piccolissime alle più strutturate, alle grandi, andranno in banca e si troveranno con le banche a regime ridotto, perché il distanziamento sociale e gli impegni che avevamo assunti anche in una firma, in un accordo sindacale, ricordo che c'era qualcuno che voleva che le banche fossero chiuse o più fortemente chiuse perché non erano strategiche per il paese, e quindi sono un po' preoccupato perché questa marea di aziende che si precipiteranno in banca probabilmente troveranno alcune filiali chiuse, altre a regime ridotto, altre che ricevono il suo appuntamento, e quindi l'operatività non penso che possa essere immediata. No, ma io capisco Gardini, però mi permetta la battuta, è quello che capita a tutti noi quando andiamo a fare la spesa in queste settimane, cioè io invece che entrare al supermercato in un minuto ce ne metto 20, mezz'ora, 40 minuti e devo organizzarmi su questo, purtroppo certo, c'è anche un'esigenza di chi lavora in banca, non è che possiamo, l'importante a me sembra però che se io so che potrò ottenere questi 25.000 euro mi armo di pazienza. Il provvedimento è giustissimo, il provvedimento è giusto, è quello che chiedevamo, ci sono risorse per le piccolissime, per le micro, per le aziende familiari, per le medie e per le grandi, mi sembra un provvedimento giusto, adesso dobbiamo mettere anche le banche in condizione di agire velocemente, perché purtroppo quello qui diceva lei, chi ha una piccola attività, che ha degli impegni da mantenere, cioè abbiamo bisogno di sostenere tutta la filiera, perché se qualcuno comincia a non pagare il fornitore, sono d'accordissimo, è la fine, si ingrippa, diciamo, tutto il motore. Senta, voi avete fatto una fotografia oggi in cui sostanzialmente dite che un'impresa su due resta aperta, con 2.400.000 imprese, con quasi 9 milioni e mezzo di addetti, ma vi riferite a imprese di servizi, industria o anche al commercio al dettaglio? Ci riferiamo complessivamente all'intero panorama, tolto la pubblica amministrazione. Okay. C'è qualcosa in più di una metà di imprese che rimane aperte. Per quello che riguarda gli addetti, sono circa il 43% che sono sospese, quindi il 56% sono operativi. Ci sono delle filiere ancora molto importanti e anche strategiche per il paese. E quindi aspettiamo che queste siano imprese che traineranno la ripresa anche dopo, mi riferisco a tutto il settore agroalimentare, ma ad altre aziende, ad altri settori che sono strategici. Siamo preoccupati per quel 43% di addetti che si riferiscono circa al 48% delle unità locali sospese, che quelle, per riprendere l'attività, e non è detto che tutti riprenderanno l'attività, sarà fondamentale la tempestività e sarà fondamentale dargli sostegno. Allora, il sostegno ieri abbiamo visto che in qualche misura è arrivato. La tempestività cosa significa? Io non sono di quelli che vuole sacrificare la salute e la sicurezza sul fronte dell'economia. Noi però dobbiamo essere in condizioni di gestire meglio il passaggio alla fase 2. Mi voglio essere più chiaro. Oggi abbiamo degli strumenti validati che ci mettono in condizione di avere dei test che ci certificano il fatto di poter lavorare. I test rapidi oggi sono fondamentali per la ripartenza, certo, sono d'accordo. Ecco, se io ho un'attività, riapro l'attività produttiva, faccio una sorta di bonifica iniziale, so che tutti i miei collaboratori, do certezze ai miei collaboratori in primis, perché nessuno oggi vuole mettere i propri collaboratori a rischio. Io sono presidente di un'azienda agroalimentare considerata strategica, abbiamo sempre lavorato anche con uno stabilimento in provincia di Piacenza, quindi in una zona molto critica, abbiamo sempre lavorato nel pieno rispetto della salute. No, ma ha ragionissimo Gardini, tant'è che volevo aggiungere che il governo ha previsto anche il credito d'imposta al 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro, incluse mascherine e protezioni. E quindi questo è importante, perché intanto l'impresa lo deve fare, perché se ti scoppia poi un caso è molto peggio, oltre che per la sanità pubblica, anche per te come imprenditore. Ma adesso c'è anche un elemento di un minimo di vantaggio, cioè il 50% lo porti in credito di imposta. Sì. È sempre tutto importante, ma la sicurezza dei nostri collaboratori vale più del 50%. Ma su questo non ci sono dubbi. Ecco. Senta, molti ascoltatori mi dicono, anche alcuni bancari mi stanno scrivendo, che il vero nodo di tutto questo pacchetto, che va bene, anch'io penso che tutto sommato, avendo tanti taglie diverse, riesca a intercettare la maggior parte del sistema produttivo italiano, è i tempi per il fondo nel rapporto banca fondo di garanzia. Voi starete a vigilare questo, perché sai, i tempi in questo senso sì, noi vigileremo in questo, fa parte degli elementi di preoccupazione che dicevo prima. Ieri in conferenza stampa il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia e il Ministro dello Sviluppo Economico hanno rassicurato sull'operatività. Una parte di operatività e di garanzia è spostata sulla SACE. La SACE fino a due giorni fa faceva un altro mestiere. Da ieri in poi è stata incaricata di garantire le imprese italiane, il credito alle imprese italiane. Prima faceva un altro mestiere. Quindi c'è un processo di ristrutturazione che impegnerà un minimo e che mi auguro possa mettere la SACE prontamente di essere in condizione di erogare garanzie. In tutti i modi, le garanzie al 90, adesso mi riferisco nel caso delle imprese più strutturate, la garanzia al 90, all'80 o al 70 in funzione delle classi, presuppongono una valutazione del merito creditizio da parte delle banche. Certo. E quindi c'è valutazione del merito creditizio, poi l'incrocio con la SACE per l'erogazione della garanzia. I tempi rischiano di essere. Però qui sono imprese sopra i 500 dipendenti, stiamo parlando. Sì, perché sotto dove c'è invece il fondo di garanzia, che può essere integrato dai consorzi fidi per arrivare al 100%, si arriva fino anche a 5 milioni lì. Vabbè. Sì, esattamente. Gardini, io la ringrazio, perché adesso ho il GR24 e poi la conferenza stampa, che speriamo foriera di buone notizie, della protezione civile. Mi raccomando, vigilate sui tempi, perché la variabile tempo è la variabile in questo momento. Se la velocità di comunicazione tra banche e fondo di garanzia è tale da dare ed erogare i prestiti, oppure se si va per le lunghe. Grazie ancora. Qualcuno mi dice, ma molti saranno tentati di fare i furbi. Attenzione, è un prestito bancario, ma perché devi chiederlo se non ne hai bisogno? Oppure comunque se lo chiedi per fare degli investimenti, visto i tassi agevolati. Ne riparliamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stiamo aspettando la conferenza, l'appuntamento giornaliero con la conferenza stampa della Protezione Civile. In attesa di questo, e alla luce di quanto abbiamo commentato, cioè il decreto liquidità per le imprese, il DL Imprese. Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'economia, questa mattina ospite a 24 Mattino con Simone Spezia e Maria Ratella, ha detto: attenzione, per l'accesso al credito c'è una data, il 31 dicembre del 2019. No, c'è una data che è 31 dicembre 2019, che fa un po' da spartiacque. Se a quella data si era in bonus, si può accedere ai prestiti, anche se in questi due mesi ci fossero stati dei processi di concordato. Questa erogazione che abbiamo messo in campo è notevole, quindi deve coinvolgere innanzitutto l'intero sistema produttivo. Avete idea di lavorare anche su specifici settori, dal settore del turismo, che sicuramente sarà quello uno dei più colpiti? Sì, quello riguarderà soprattutto la fase della ripresa e quindi il sostegno alla ripartenza di queste delle aziende, soprattutto il settore del turismo in generale, l'alberghiero, tutta la filiera. Però adesso abbiamo preferito un intervento generalizzato. La discussione sulla SACE non riguarda i tempi e le modalità di erogazione, ma riguarda appunto qual era la filiera di intervento, e sostanzialmente la conclusione è molto chiara, cioè ci sono 200 miliardi destinati soprattutto alle imprese interne, ma 200 miliardi destinati per le imprese italiane che lavorano all'estero, e comunque la SACE è il canale principale. Ovviamente a questo punto c'è un ruolo delle banche, bisogna che le banche diano una mano e siano molto, molto coerenti con quanto il decreto ha deciso. Tasso di interesse? 0,2-0,3 cifre simboliche, giusto per le banche non abbiano argomenti. Ed è importante appunto quello che dichiarava Baretta, perché chiarisce anche che, insomma, per accedere al credito fa fede il 31 dicembre 2019, se si era in bonus e quindi non c'erano situazioni particolari si può accedere, e avete sentito anche la specifica su quello che può essere successo tra gennaio e febbraio. A me sembra un limite ragionevole, cioè il 31 dicembre 2019 sappiamo purtroppo che il virus era già presente in Cina e già circolava, ma qui ancora il turismo andava normalmente, le attività andavano proseguendo normalmente, cioè, insomma, sembra una data ragionevole, 31 dicembre. Ancora Baretta sulla proposta di Giorgia Meloni avere dei lavori utili per chi ha aiuto dallo Stato, cioè chi riceve un welfare statale, sovvenzione pubblica, potrebbe essere utilizzato. La Meloni si riferiva, se ricordo bene, ai percettori del reddito di cittadinanza. Anch'io sono d'accordo, nel senso che però c'è la conferenza stampa della Protezione Civile, poi magari torniamo sul tema, perché intanto chi è al reddito di cittadinanza non avrà sicuramente offerte di lavoro in questo periodo, almeno venga utilizzato per lavori socialmente utili. Sentiamo però Borrelli. Infettive e basta dell'Istituto Superiore di Sanità. Ringrazio anche Susanna Di Pietra che rientra qui alla nostra conferenza stampa. Partiamo con i dati di oggi. Oggi si conferma una diminuzione del trend di crescita dei contagiati, con un incremento complessivo delle persone contagiate di 3.039 rispetto a ieri. Ad oggi dunque il totale delle persone attualmente positive è di 94.067, con una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri. È l'incremento più basso registrato dal 10 marzo scorso. Come nei giorni scorsi, si allenta anche la pressione sugli ospedali per quanto riguarda le persone ricoverate e le persone ricoverate in terapia intensiva. Il dato che oggi registriamo è un decremento di 106 pazienti in terapia intensiva, che porta il totale dei pazienti in terapia intensiva a 3.792 pazienti e di 258 ricoverati con sintomi, per un totale di ricoverati con sintomi di 28.718. La maggior parte dei pazienti positivi, il 65%, resta in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero dei pazienti positivi con sintomi o con sintomi lievi è quindi di 61.557. Oggi registriamo purtroppo anche il numero dei deceduti, che è di 604 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale invece a 24.392 pazienti, 1.555 rispetto a ieri, è il secondo valore in assoluto in termini di guariti da quando abbiamo registrato la diffusione dell'epidemia. Passando al dato delle somme raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile nel conto corrente dedicato, aperto per procedere al pagamento dei ventilatori e dei dispositivi di protezione individuale, il valore degli... Allora, i dati di oggi che al di là, devo dire, di un calo nei decessi che è lento, perché sono comunque 604, ieri erano 636, ma il giorno prima erano 525, la domenica forse i dati arrivano un po' in ritardo, comunque c'è un calo anche lì nell'incremento dei decessi, siamo al più 3,7%, mentre si viaggiava ieri al più 4%, la settimana scorsa si andava tra il più 7% e il più 6%, la settimana prima l'incremento dei decessi era tra l'8% e il 10-11%, quindi c'è sicuramente un rallentamento nell'incremento dei decessi, più 3,7%. La cosa buona, quindi tanto sono sempre tantissimi 600 morti, però per quello che riguarda i decessi comunque si segnala un aumento che è la metà giorno per giorno rispetto alla settimana scorsa ed è a un terzo quasi della settimana prima. Non voglio neanche andare alla settimana, diciamo, dal 16 marzo al 20 marzo, dove l'aumento dei decessi giorno per giorno era tra il 20, il 15 e il 18%, quindi attenzione, questa è una notizia positiva. Sono ancora alti come numero 604. La buona notizia è, da un lato, i positivi, che sono saliti solo dello 0,9%, e quindi 880 in più, che è un numero molto basso. Ieri erano 1940 in più, oggi solo con il 2% in più. La settimana scorsa si viaggiava con un 5% in più di aumento dei positivi di giorno in giorno, tra il 5 e l'8%, qui siamo al più 0,8, più 0,9. I guariti più 7, i ricoverati meno 1, i ricoverati in terapia intensiva meno 2,7%, 106 in meno, i ricoverati complessivamente sono calati dell'1,1%, e anche questa è una buona notizia, perché sostanzialmente nell'arco di 3 giorni siamo passati da oltre 4.000 casi di terapia intensiva a 3.790 adesso, vuol dire liberare posti, liberare letti, levare dalla pressione, parte della pressione sul personale sanitario. Il totale dei casi sono 135.000, che tengono conto dei deceduti, dei dimessi guariti, dei casi attuali, più 2-3%, sono 3.000 in più, più 2-3%, anche qui è in rallentamento la curva. Vabbè, non sono presto per festeggiare, qua non c'è nulla da festeggiare con 600 decessi, però la curva invece conferma, perché ripeto, giorno per giorno non ha senso. Le percentuali, lo dico che mi scrive, sono sempre rispetto al giorno prima, però come ci hanno spiegato dall'Istituto Superiore della Sanità è importante la settimana, e allora ripeto, la settimana ha avuto un aumento dei positivi giornaliero tra il 3, questa settimana, l'ultima settimana, tra il 3 e il 2%, oggi più 0,9. I decessi sono stati tra il 7 e il 4%, oggi più 3%. E il miglioramento c'è a livello percentuale in tutte le variazioni. Non è vero, qualcuno mi scrive, ma se fanno meno tamponi? Non c'è nessun elemento per dire che fanno meno tamponi, anzi la Protezione Civile e l'Istituto Superiore della Sanità ci dicono che i tamponi non sono diminuiti. Comunque 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Questo non vuol dire rallentare le misure. Quando abbiamo superato i 17.000 morti in questo paese, con oggi siamo a 17.127, poi non sarà una guerra, chiamatela in un altro modo, in un mese, un poco più di un mese, col cavolo che si può allentare la misura, lo dico a chi magari complice il clima può pensare, beh, adesso scampato pericolo, attenzione a non vanificare tutto. Comunque traffico e poi ci spostiamo su Bruxelles. Focus Economia. Prima di spostarci a Bruxelles, però, volevo far ascoltare il sottosegretario Baretta sulla proposta di Giorgia Meloni di utilizzare chi usa il reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili anche nei campi. Sono assolutamente d'accordo, soprattutto se sono in età, diciamo, non da pensione, e tanto è inutile, il lavoro non si trova in questo momento. Baretta, e poi però anche il commento della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, sempre questa mattina, con Simone Spezia e Maria Ratella. Sono, diciamo, abbastanza disponibile, non tanto chi reddito di cittadinanza, tutti coloro che hanno avuto una sovvenzione pubblica possono essere utilizzati in situazioni di pubblica utilità, chiamiamola così, perché anche raccogliere quello che c'è nei campi in questo momento di pubblica utilità. Lo farei non con uno spirito, diciamo, di rivalsa su un provvedimento o di un altro, lo farei proprio con l'idea che abbiamo bisogno di personale, chi ha sovvenzioni pubbliche può, per me non avrei obiezioni al fatto di utilizzarlo se serve in situazioni di emergenza. Il tema della liquidità delle imprese è sicuramente una priorità assoluta, e io, se devo leggere i titoli di giornali, il provvedimento lo considero interessante, però una virgola ti cambia tutto il provvedimento, no? Quindi io devo vedere i testi. Purtroppo quella stessa disponibilità finora non l'abbiamo vista nella cabina di regia. Io devo dire la verità, dopo giorni in cui tutte le nostre proposte vengono respinte, ho deciso di ritirare i 168 emendamenti di Fratelli d'Italia, ne abbiamo lasciati solo 20, e a me pare che il governo in questa fase stia, per esempio, facendo la guardia bianca della burocrazia. Allora, adesso parliamo di Bruxelles, però vedo due cose importanti. La prima, Borrelli ha confermato che l'incremento dei nuovi contagiati è il più basso dal 10 marzo. E adesso, poco fa, Giovanni Rezza, dell'Istituto Superiore della Sanità, in conferenza stampa ha detto: finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione dei nuovi casi. Dopo una fase di plateau del tetto, sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere in basso, però aspettiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo, sì, anche prima di tirarlo veramente, qua passeranno settimane. Adriana Ceretelli, la mitica, buonasera. Buonasera. Tu dove stai trascorrendo, scusami Adriana, la quarantena? Bruxelles. Sono prigioniera a Bruxelles. Vabbè, beh, in effetti. Dipende di chi hai attorno, se è olandese o tedeschi oppure francese. No, sola soletta. Sola soletta, siamo tutti in isolamento. Adriana, avevamo visto delle aperture da ieri, sembrava che poi è arrivata una specie di gelato oggi, la dichiarazione del ministro delle finanze olandese, che adesso vado a riprendere, che dice: no, per noi la strada, l'unica strada, dov'è adesso il ministro delle finanze olandese, l'unica strada, eccolo qua, niente eurobond, sì al meccanismo europeo di stabilità ma con le condizioni. Se fosse così non si troverebbe mai un accordo, perché Italia ma anche Francia, Spagna hanno chiesto che lo strumento non debba avere delle condizionalità, cioè non possa prevedere, poi non dico neanche la troica, ma tutto un insieme di commissariamento su come gestirà i conti pubblici nel futuro. Sì, però io trovo che la posizione olandese in questo momento è abbastanza estremistica, però vorrei aggiungere, e non è condivisa fino in fondo dalla Germania, per cui questa è la cosa più importante. La Germania, sì, certo, ha detto che la condizionalità leggera è quella che ci vuole. Non solo oggi il servizio giuridico del Consiglio europeo si è pronunciato sulla legittimità di un'interpretazione di questo tipo per le condizionalità, perché non so se sapete che, insomma, nel trattato si parla di severe condizionalità, mentre invece di fronte a questa emergenza il servizio giuridico dice che può benissimo essere applicata appunto una condizionalità leggera. Ma secondo me il problema sta altrove, nel senso che gli euro bond o corona bond o quel che si vuole, quello sì che non è tanto l'Olanda ma quanto la Germania, non li vogliono nell'immediato. Sostanzialmente la posizione del nord è quella di dire: in questo momento non c'è urgenza, avete avuto la flessibilità del patto, avrete questi strumenti che dovrebbero essere approvati, quindi per ora ci si fa, poi nei prossimi mesi vedremo. E secondo me in questo c'è, da una parte si capisce che essendo loro, non avendo loro il fiato sul collo dell'emergenza, perché hanno una disponibilità di quattrini abbondantissima, non riescano a, o non vogliono vedere l'urgenza invece che per i paesi che non sono altrettanto ricchi esiste di fronte ai costi di questa recessione che si annuncia purtroppo in arrivo. E quindi io credo che questo Eurogruppo, che sarà difficile, è cominciato con un'ora e mezza di ritardo, tanto per dire a che punto siamo nonostante i negoziati prima della riunione, io credo che questo Eurogruppo, se tutto andrà bene, dovrebbe diciamo perlomeno riuscire ad approvare allora il MES, diciamo alleggerito, che vorrebbe dire grosso modo mettere sul tavolo 240 miliardi e per noi ce ne sarebbero 36, cioè il 2% del PIL, con delle condizionalità leggere che quindi potrebbero rendere accettabile la cosa. Poi ci dovrebbero essere altri 200 miliardi della BEI, grazie al potenziamento delle garanzie degli stati, a 25 miliardi, da cui si riuscirebbero a tirarne fuori appunto 200, più ce ne sarebbero sempre per le imprese altri 40 che sono già, diciamo, fieri, e inoltre ci dovrebbero essere i famosi 100 miliardi di quello che si chiama SURE, cioè il piano della von der Leyen sulla disoccupazione. Allora, questo dovrebbe dare un minimo di fiato, non è sufficiente nella maniera più assoluta, però, e l'altra cosa ultima che potrebbe passare è questo fondo diciamo proposto dalla Commissione e sostenuto dall'Olanda, questo sì, da 20 miliardi per quello che riguarda invece tutti gli interventi nella sanità, quindi che siano apparecchiature, che sia proprio diciamo le strutture degli ospedali, eccetera. Mentre il Corona Bond, gli Euro Bond, insomma quel che si vuole, e il famoso fondo francese, no? Quello sì, per gli investimenti, per la rifondazione, quello dovrebbe slittare più avanti. Però scusami Adriana, per come tu la stai descrivendo, qui ci sono, c'è un problema a mio avviso. Intanto c'è un problema di comunicazione, perché per carità, però se uno inizia a dire alla fine, cioè i cittadini europei di Francia, Spagna, Italia in primis, vogliono vedere se anche nel centro-nord Europa si è capita la situazione. Poi lo strumento, però io ho il timore che se di provvedimenti sono un insieme di tanti medi provvedimenti, si mette assieme la von der Leyen col piano SURE, poi dai un po' di soldi per strutture sanitarie, così l'impatto anche nella comunicazione sarà di dire l'Europa ha partorito un topolino. E B, io ho la sensazione che in questo modo i governi francese, italiano e spagnolo non l'accetteranno. Ma io non lo so, io mi auguro invece che lo accettino, perché comunque sarebbe un tampone. Bisogna anche pensare che questa, diciamo, emergenza costa un sacco di soldi, e i paesi del sud, in particolare il nostro con l'alto debito e compagnia, ha un problema di stabilizzazione in qualche modo anche dell'emergenza sanitaria, e quindi tutto quello che arriva è da prendere, secondo me. Dopodiché il corona bond, il bond eccetera, cioè forse nei prossimi mesi si farà, ma per ora io non credo che nell'immediato si farà, non credo, e non credo nemmeno il fondo francese, anche perché in ogni caso sarebbero strumenti che richiedono tempo. E poi appunto il nord è convinto che non ci sia questa grande emergenza. Secondo me sbagliano perché rischiano di fare lo stesso errore che fecero con la Grecia, certo, cioè tirar là e poi i costi si moltiplicano, i mercati cominciano ad attaccare, eccetera. C'è sempre però, non dimentichiamoci, il cuscino della BCE che continua, sì, a comprare. Sì, no, vabbè, i tassi resteranno bassi, però secondo me è una sì, modo, però scusami, ecco. Adesso io ti saluto, ti ringrazio perché come sempre sei chiarissima, però il problema è che se l'Italia e la Spagna dicevano uno strumento di condivisione del debito, la Francia dice un fondo europeo, e tutto questo si risulta, cioè si riduce a un piccolo fondo. Alla fine io temo che i governi, politicamente i governi Sanchez, Macron e Conte, non possono andare al loro elettorato dicendo guardate non ci davano altro. Questo è il mio timore, perché c'è anche una partita politica che gli olandesi non stanno capendo, e neanche i tedeschi, ma la cosa non mi sorprende perché non la capirono neanche i tempi della Grecia, e se non ci fosse stato Mario Draghi avremmo visto un altro film. Grazie ad Adriana Ceretelli. Qualcuno mi dice boicotteremo i tulipani, ma sì, per carità, il problema non è boicottare i tulipani, il problema è avere una comprensione completa in Europa di quello che sta capitando. Comunque ne parleremo domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.